edizione. Sono le 6, 16 minuti e 28 secondi, di nuovo buona giornata, gentili ascoltatori, vediamo di dare un'occhiata a quello che troviamo sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola e anche che cosa troviamo sui siti dei quotidiani stranieri, perché anche là ci sono parecchie cose interessanti. Dunque però iniziamo dall'Italia, aperture per quanto riguarda la Repubblica e il Corriere della Sera dedicate alla politica. Non si accantona Berlusconi è il titolo del Corriere della Sera, Alfano con il Premier e nel sommario anche la Presidente di Confindustria Emma Marcegaglia che dice sanatorie premiano i furbi. Da segnalare anche il servizio che riguarda il congresso di ieri della Lega a Varese, la Lega si spacca, spintoni, insulti e tessere strappate, racconta firma di Marco Cremonesi, e anche i problemi all'interno del PDL, Verdini e La Fronda, conosco Scajola, lui non romperà, è un servizio di Paola Di Caro. Il commento di prima pagina è dedicato ai condoni, basta condoni sono una truffa, la firma è di Gian Antonio Stella. A centro pagina la notizia che Merkel e Sarkozy promettono di salvare le banche, come abbiamo visto tra l'altro questa notte c'è stata un'evoluzione con il salvataggio appunto di Dexia, la banca franco-belga. Centro pagina la foto della strage di cristiani in Egitto, scontri con l'esercito, oltre 20 morti, e poi di taglio basso a firma Sergio Rizzo la figuraccia del censimento online, 500.000 contatti, il sito dell'Istat va in tilt, i ritardi tecnologici dell'Italia. Sulla Repubblica, apertura dedicata ad Alfano e Bossi ai ribelli del PDL, Berlusconi non si tocca, ma c'è un titolo forte dedicato anche all'incontro tra Angela Merkel e Nicolas Sarkozy, patto Merkel-Sarkozy, l'Europa è pronta a ricapitalizzare le banche. Segnaliamo sempre della Repubblica il no di Confindustria al condono in forte evidenza, ma a proposito di politica il pezzo a firma di Carmelo Lopapa, il Premier rilancia la aperte virgolette campagna acquisti. Ci sono anche dei titoli sulle primarie francesi delle quali parleremo tra un attimo. Per quanto riguarda la stampa, anche qua l'apertura è politica, Alfano chiude al terzo polo, non si può accantonare Berlusconi, l'UDC che dice impossibile collaborare, molto esplicito il titolo sulla Lega, Varese un bossiano segretario, scoppia la protesta della base, contestazione dopo l'intervento di Bossi, non l'abbiamo eletto noi così il partito è finito. Editoriale dedicato alla politica, siamo tutti prigionieri del Cavaliere, è il titolo dell'editoriale a firma di Marcello Sorgi. A centropagina campeggia una grande foto di Paul McCartney, il Beatle che colleziona matrimoni, è il titolo, ha sposato l'ereditiera Nancy il giorno del compleanno di Lennon. Di taglio basso anche qua il censimento, il pezzo è firmato al nostro Gianluca Nicoletti, censimento, 500.000 cittadini provano a compilare il modulo, il sito va in tilt, nota giustamente Nicoletti, ma l'Istat non sapeva quanti italiani usano internet. Il Messaggero, l'apertura è sulla Presidente di Confindustria Marcegaglia che dice no al condono, Marcegaglia no al condono è il titolo, Alfano chiude al terzo polo, Berlusconi non si può accantonare. C'è notizia naturalmente di quello che è successo al Cairo, l'esercito spara al Cairo, strage di cristiani copti, in buona evidenza anche la notizia dell'interrogatorio ieri di Filippo Penati, ascoltato per 8 ore negli uffici della Guardia di Finanza di Monza. Non ho mai preso un euro da Pasini e di Caterina, è la prima cosa che ha detto ai PM che lo interrogavano. Il titolo di centropagina è dedicato al vertice tra Merkel e Sarkozy, salveremo le banche europee, e anche qua il sito del censimento che va in tilt. Segnaliamo anche quello che una notizia alla quale dà evidenza il Messaggero, che abbiamo già sentito poco fa nella pagina sportiva con il nostro Dario Ricci: la polemica della Lega contro l'oriundo Osvaldo che gioca in nazionale. Osvaldo dice: io più italiano dei leghisti. Il Sole 24 Ore, come sapete, il Sole 24 Ore del lunedì, dell'Italia divisa, delle pensioni: al nord due assegni di anzianità su tre, al sud il 50% delle invalidità. Vi abbiamo parlato poco fa all'interno del nostro giornale radio con il servizio di Gianni Trovati. A centropagina segnaliamo che si parla di ICE, l'export, prove di rinascita per l'ICE 2, uno strumento più snello dovrà garantire una maggiore presenza all'estero. E poi si parla di nuovo arrivo, di nuovi incentivi in arrivo dalle regioni, aiuti alle PMI innovative. Questo per quanto riguarda i quotidiani italiani. Diamo un'occhiata a quello che stanno pubblicando i giornali esteri. Innanzitutto vi segnaliamo una storia interessante che in questo momento apre il sito del Wall Street Journal, cioè che il governo americano ha ottenuto un ordine da una corte di giustizia che gli permetterà di costringere Google e un piccolo internet provider a fornire i dati dalle email di un volontario di Wikileaks, Jacob Applebaum. Vedremo poi che conseguenze avrà naturalmente questo, però interessante, apre degli scenari interessanti dal lato di quello che i governi possono fare nell'entrare nella privacy, per così dire, dei cittadini. Il New York Times apre sul fatto che ufficialmente la recessione è finita e però i redditi degli americani sono ancora a bassissimi livelli, e spazio ancora all'economia con l'incontro tra Merkel e Sarkozy. L'apertura del Washington Post è dedicata alle proteste al Cairo e agli scontri che ci sono stati, e poi il Washington Post segnala una certa vaghezza da parte di tutti i candidati repubblicani sulle ricette economiche, ed è un modo anche per lanciare quello che sarà il prossimo dibattito tra i repubblicani che stanno correndo per la partecipazione alle primarie e per la corsa alla presidenza, che è un dibattito organizzato proprio dal Washington Post insieme a Bloomberg, che sarà tra due giorni, e sicuramente ve ne daremo conto tra tre nel corso di prima edizione, che sarà solo ed esattamente sui temi economici. Molto è dedicato invece sui quotidiani inglesi alla vicenda del segretario alla difesa britannico. C'è una questione di rapporti poco chiari con un suo caro amico, molto intimo e testimone di nozze, che sarebbe entrato in alcune vicende che riguardano i rapporti tra le lobby e lo stesso segretario alla difesa, vicenda che tra l'altro ve lo segnaliamo perché è molto interessante, che ha avuto evoluzioni importanti nel corso di fine settimana, e questo è esplicitamente citato dai giornali inglesi, grazie a un blog di politica italiana. Il blog è NomFup, ve lo diciamo così in maniera che lo possiate trovare facilmente, nomfup.wordpress.com, ed è un sito che è riuscito a reperire in rete, un blog che è riuscito a reperire in rete dei video che riportavano le visite, alcune visite all'estero di questo segretario alla difesa con questo suo amico accanto, che, come dire, aveva poco senso. Adesso i giornali stanno facendo pressione, i giornali inglesi stanno facendo pressione perché si dimetta. I giornali francesi, come potrete ben immaginare, aprono sulle primarie tra i socialisti francesi, ed è proprio di quelle che parliamo adesso. Andranno al ballottaggio Hollande e la Aubry. Marco Mussanè, corrispondente del Sole 24 Ore. Allora, ci sono novità interessanti da queste primarie oppure no? Sì, in realtà ci sono, diciamo, un paio di sorprese nel voto di ieri dei militanti della sinistra alle primarie del Partito Socialista. La prima, sicuramente la più importante, la più significativa, è l'ottimo risultato ottenuto dall'avvocato Arnaud Montebourg. È un personaggio della sinistra del partito, l'alfiere dell'antimondializzazione, l'uomo della pulizia all'interno del partito, quello che ha denunciato con forza lo scandalo per corruzione a Marsiglia, e è partito in posizione marginale, in realtà ha ottenuto un ottimo risultato al terzo posto con il 17% dei voti. La seconda sorpresa è che il distacco tra François Hollande, che vince con il 39%, e Martine Aubry, la sua principale avversaria, seconda con il 31%, è inferiore alle previsioni. Si immaginava uno scarto di 10 punti e forse anche qualcosa di più, lo scarto di circa 8 punti, il che rende le previsioni per l'esito finale di queste primarie con il secondo turno di domenica prossima alquanto difficile da formulare. Grazie dunque a Marco Mussanè, corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi. Prima edizione. Le 6:34 minuti e 48 secondi, è il momento di Italia in controluce. Ci ritroviamo subito dopo per tutti gli aggiornamenti e la situazione in Egitto. Italia in controluce. È 10 ottobre, buongiorno a tutti da Daniele Biacchessi. La mafia è ancora radicata nel suo luogo di origine, cioè la Sicilia, oppure qualcosa è cambiato, è mutato? Nino Amadore intervista oggi per noi Pier Giorgio Morosini, giudice per le indagini preliminari a Palermo. La mafia sta cambiando pelle ed è riuscita a passare dalla dimensione militare a quella finanziaria. È l'analisi di Pier Giorgio Morosini, giudice per le indagini preliminari a Palermo, che ha messo la firma su sentenze importanti in tema di collateralismo e di collusione dei colletti bianchi con la mafia. Ed è proprio sul rapporto tra la mafia e la cosiddetta zona grigia che Morosini punta l'attenzione, nella consapevolezza che Cosa Nostra si muove su una direttrice chiara: tradizione nella modernità. Quanto è importante il territorio ancora per Cosa Nostra? Il controllo del territorio resta importantissimo, dobbiamo però interrogarci se Cosa Nostra in questo momento ce l'ha ancora il controllo così penetrante del territorio, perché non possiamo dimenticare che operazioni come Gota e come Perseo hanno disarticolato le strutture organizzative sui territori, le hanno disarticolate sottraendogli risorse umane ma anche risorse economiche. Quindi in questo momento il panorama del territorio locale non è facilmente decodificabile come lo era qualche anno fa. La mafia continua a fare affari, cioè la mafia è presente nei settori dell'economia, è stato disarticolato l'apparato militare, però questo apparato economico ancora è forte, e se è forte quanto è forte? La mafia probabilmente sta cambiando pelle e si sta concentrando molto di più sul profilo economico che non sul nocciolo duro del controllo del territorio. E questo lo dimostrano diverse operazioni che sono state fatte nel nord Italia, che alcune riguardano altre organizzazioni criminali storiche come l'Andrangheta e la Camorra, però in realtà ci indicano un metodo che viene condiviso dalle macro organizzazioni criminali di stampo mafioso. Cioè si sta investendo molto di più nel nord, anche perché lì ci sono piccole e medie aziende che sono in crisi di liquidità notevole, e in questo momento, non avendo il conforto degli istituti bancari, necessariamente si rivolgono per la loro crisi di liquidità a capitali che sono capitali mafiosi. Quindi il capitale legale di certe realtà del territorio italiano si sta pesantemente contaminando con flussi di denaro che arrivano dal sud e che sono il frutto di attività criminale. E dalla prima edizione di oggi di Italia in controluce torniamo alle 13:30 con nuovi reportage su Radio 24. We'll be right back. 38 minuti e 15 secondi e veniamo ad approfondire quello che è successo ieri sera in Egitto, dove ci sono stati nuovi scontri con varie versioni differenti da quel che abbiamo capito. Iniziamo dalla cronaca. Laura Bettini, buongiorno. Buongiorno Simone, ci sono diverse versioni su chi prima abbia provocato l'altra parte, cioè se i manifestanti copti oppure la polizia nei confronti dei manifestanti copti che erano scesi in piazza. Il risultato però è questo. Spari e al momento un bilancio di 23 morti e 174 feriti al Cairo. Le autorità egiziane hanno poi decretato il coprifuoco fino a questa mattina nei quartieri centrali della città. La protesta dei copti era stata annunciata nei giorni scorsi dopo che era stata data alle fiamme una chiesa copta nella provincia di Aswan la scorsa settimana. Doveva radunare decine di migliaia di fedeli in piazza Tahrir, la piazza che ben conosciamo per la primavera araba cosiddetta, al Cairo. Si doveva manifestare anche contro il capo del Consiglio Supremo della Difesa, che è il maresciallo Hussein Tantawi, accusato di non essersi impegnato a sufficienza per far rispettare i diritti dei cristiani egiziani da parte della maggioranza musulmana. È una minoranza quella dei cristiani egiziani, i copti, che però non è così piccola, anche se non quantificata esattamente, si conta che sia circa il 10% della popolazione, quindi stiamo parlando di 80 milioni di abitanti, così dicono le agenzie questa mattina. Cosa è successo? Che gli scontri sono iniziati ben prima di Piazza Tahrir, nel quartiere di Shoubra, nel nord della capitale, per poi allargarsi lungo il Nilo nella zona di Maspero, davanti alla sede della televisione di Stato, e poi ci sono stati scontri anche a Piazza Tahrir. Chi ha iniziato? Alcuni copti si sarebbero impadroniti in precedenza delle armi prelevate da un veicolo militare dato alle fiamme e poi l'avrebbero usato contro i militari, così riferisce il Corriere della Sera questa mattina. Altri invece dicono sono stati prima i militari ad attaccare i copti. Comunque sia, ci sono stati questi scontri gravissimi degenerati in violenze interconfessionali più generali tra musulmani e copti nella città del Cairo. Si sono battuti a colpi di pietre e bastoni nei quartieri della città. La situazione al momento è definita esplosiva dallo stesso governo. La nazione è in pericolo a seguito di questi eventi, ha detto il primo ministro egiziano Essam Sharaf in questo discorso che è stato trasmesso nella notte dalla televisione pubblica. Questi eventi ci hanno riportato indietro invece di andare avanti per costruire uno Stato moderno su delle sane basi democratiche. La cosa più pericolosa che possa minacciare la sicurezza della nazione. Simone. Sì, Laura, sono circolate anche voci che in realtà poi nel corso della serata in piazza Tahrir si fossero riuniti musulmani e copti per inneggiare insieme, come dire, all'unità delle religioni. Queste voci non sono state confermate, vero? Esatto, non sono state confermate. Io non ne ho trovato traccia nella ricerca che ha preceduto questo collegamento. L'ho sentito anch'io questa notizia, non ho trovato conferme, ma può anche essere che ci sia stato. Del resto si era già verificato in marzo questa unione di musulmani e copti in piazza Tahrir per inneggiare all'unità nazionale, alla pacificazione nazionale. Può essere. Il dato è che però coloro che si sono scontrati sono numericamente molto superiori rispetto a coloro che si sono uniti in questa occasione. Allora, allora Laura, sì, volevamo capire anche questo. Allora, sembra a quanto pare, questo come dire, l'esplosione di un clima di tensione che si respirava da qualche tempo, anche perché dopo la famosa primavera egiziana che abbiamo ampiamente raccontato, in realtà il potere è stato preso in mano dai militari e qualche filo di tensione, soprattutto tra quelli che erano gli ex giovani di Piazza Tahrir, è rimasto. Questo poi finisce a sfociare in vicende come queste, in scontri appunto interreligiosi. Sì, succede questo a causa anche del fatto che attualmente l'Egitto sta ancora aspettando il momento delle elezioni. L'esercito egiziano quindi ha assunto temporaneamente la guida del paese, ma la sta mantenendo la guida del paese dopo le dimissioni del presidente Mubarak, e tra l'altro l'esercito ha già avvisato che in condizioni come queste che si sono verificate questa notte intende usare il pugno di ferro contro coloro che incitano alla violenza interconfessionale, e dopo quello che è già accaduto nel maggio scorso con altri scontri sempre assai violenti tra copti e musulmani. Quindi bisognerà attendere oggi quella che è la reazione dei militari che stanno governando il paese. Ci sarà un annuncio da parte il governo di Cairo ha già annunciato di voler varare una legge di revoca delle restrizioni in vigore per la costruzione di nuove chiese, proibendo inoltre di tenere manifestazioni davanti ai luoghi di culto. Questo per abolire una legge che risale di fatto all'impero ottomano, quando i cristiani dovevano ottenere un'autorizzazione per la costruzione o il restauro di chiese, al contrario di quanto accadeva per le moschee. Vediamo se manterranno la parola di fronte agli scontri che sono avvenuti nella notte. Vedremo che cosa succederà. Grazie nel frattempo a Laura Bettini. Prima edizione. Sono le 6:46 minuti e 40 secondi, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Vediamo innanzitutto qualche aggiornamento sulla notizia della notte. Come sapete c'era una parte d'Europa che era in attesa per quel che sarebbe successo alla banca francese Dexia, che appunto aveva qualche problema per l'esposizione verso i titoli greci per poco più di 4 miliardi di euro, e in parte anche per quello che è successo nelle ultime settimane ai titoli di Stato italiani. Dexia è esposta per oltre 15 miliardi ai titoli di Stato italiani. Ebbene, nella nota è stato raggiunto un accordo tra i governi, tra il governo francese e il governo belga. Che cosa succederà? Succederà che Dexia verrà verrà scorporata in due parti, non sarà più franco-belga ma la parte belga sarà separata e di fatto verrà nazionalizzata. Il consiglio di amministrazione della banca franco-belga ha appena fornito un comunicato nel quale dice che accettare l'offerta di riacquisto della filiale della banca in Belgio sia nell'interesse sociale del gruppo Dexia. Il Belgio assumerà il controllo per 4 miliardi di euro. Prima tappa dello smembramento del gruppo avviato una settimana fa. Comunque verranno iniettati in Dexia circa 90 miliardi di euro, dopo che 150 ne erano stati iniettati appena 3 anni fa. E adesso ci ha già raggiunto in studio Alessandro Milan. Alessandro, eccoci qua. Allora, qualcosina abbiamo lunedì mattina. Sì, guarda, ottimo proprio. Stavamo ragionando su questo, no? Sì, senti una cosa. Allora, vedo parecchia roba come sempre, a partire da questo censimento che oggi domina le prime pagine dei quotidiani. Sì, sì. Perché comunque insomma basta un mezzo milione di italiani su internet. Certo. Il migliore è il nostro Gianluca Nicoletti. Sì. Che ha scritto sulla stampa a dire: l'Istat non sapeva quanti italiani stanno su internet. Questo è già un dato di fatto, perché è saltato tutto il cervellone centrale e ci sono racconti ovunque: ho perso 8 ore, ho combattuto come alle domande di Marzullo, gente che ha tirato fuori che io dico dopo mezz'ora vai a farti una gita. Sì. Insomma, e compila serenamente un altro giorno il questionario. Sì. Istat con carta e penna. Sì, che ovviamente poi alla fine si impallerà tutto l'ultimo giorno, che questo è tipicamente italiano, nel giorno nel quale scherziamo, in realtà molti italiani si sono trovati molto in difficoltà, e anche ci sono le polemiche per questo cervellone che è andato in tilt il primo giorno, tutti a compilare il 9 ottobre, perché bisognava focalizzare tutto e cristallizzare al 9 ottobre. Allora molti italiani con grande zelo il 9 ottobre si sono messi. Certo. Lì con internet, saltato tutto. Senti, che altro c'è di interessante? Allora c'è, molta politica, tutta la questione Scajola, non Scajola, i malpancisti li hanno già chiamati, quelli che vorrebbero uscire dal PDL o così pare, e staremo a vedere. Questa è una settimana decisiva, ma lo si dice tutte le settimane della politica, quindi anche questa è una settimana decisiva. Ti voglio solo dare una chicca, però tu devi promettere che non ridi, perché la questione è molto seria. Ne parla il Giornale, ne parlano anche Repubblica, un quartiere quartiere in rivolta a Padova contro i sordomuti, perché dicono fanno troppo rumore in una scuola. Scusa, è discretamente irresistibile. È vero. La notizia anche Repubblica. Fanno troppi schiamazzi e c'è un quartiere in rivolta con tanto di due persone, Gastone Fattore e Maurizia Cervi, che capeggiano questa rivolta del quartiere, sono andati per vie legali. Ma come mai? Cioè, questi schiamazzi da cosa derivano? Fanno schiamazzi e quindi hanno denunciato. Evidentemente. Abbiamo ancora un minuto, Alessandro. Ma ovviamente io non ho capito se è nata la figlia di Sarkozy e Carla Bruni. No, manca ancora un bel po'. No, perché il Quotidiano Nazionale il Giorno titola in prima pagina Maternite. Però non è ancora nata in realtà. Vabbè, insomma, comunque ci sono tante altre cose curiose che poi andremo a vedere. Sì, perché poi là su quel tema c'è chi sospetta che Carla abbia programmato un cesareo a ridosso del secondo turno delle primarie francesi, delle primarie dei socialisti francesi, per oscurare il tutto. Un figlio val bene un'elezione, una rielezione. Grazie Alessandro Milan, grazie Carmelo Lauricella in regia, Viola da Piaggio in redazione, grazie a tutti voi per l'ascolto, da Simone Spezia, buona giornata.